pallone. Perché? Perché una volta non ci porti pure me? Chissà, chissà, se davvero vai a vedere la tua squadra, o se invece tu mi lasci con la scusa del pallone. Chissà, chissà, se mi dici una bugia o la verità, ma un giorno ti seguirò, perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire, e se scoprirò io potrò che mi vuoi imbrogliare da mamma, ritornerò. Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Perché, perché una volta non ci porti pure me? Ma un giorno ti seguirò, perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire, e se scoprirò io potrò che mi vuoi imbrogliare da mamma, ritornerò. Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Perché, ci porti pure me.